Radio 24 Reportage. Italia e Russia. Dal Made in Italy al Made with Italy. Di Laura Bettini. Madamina, il catalogo è questo. Tra russi e italiani c'è qualcosa, ci sentiamo ripetere a Mosca, qualcosa che affonda le sue radici nella storia, nella cultura e si riflette nei gusti, nei desideri e nelle ambizioni. Difficile dire cosa, i sentimenti si provano, non si spiegano, mi dicono. La corrispondenza di amorosi sensi negli ultimi anni si è riflessa anche nell'interscambio tra i due paesi, con l'Italia che è arrivata ad essere il secondo partner commerciale della Federazione Russa in Europa dopo la Germania. Ma del resto in una storia d'amore c'è sempre un valido rivale. Poi sono arrivate le sanzioni, il crollo del prezzo del petrolio e del rublo, e le carte in tavola sono radicalmente cambiate, ci spiega Pierpaolo Celeste, direttore dell'agenzia ICE di Mosca. È un paese che sta soffrendo sicuramente innanzitutto per il crollo del petrolio che pagava ovviamente molto dei conti del paese. Questo ha significato anche una situazione in cui il paese dovesse rivedere le spese interne e quindi rifare i calcoli su quello che si poteva permettere in termini di importazioni, su quello che si poteva permettere in termini proprio di consumi. È un paese quindi che si è dato un programma di sostituzione delle importazioni, un programma che prevede da qui a 5 anni alcune percentuali in tanti settori in cui calano le importazioni dall'estero e cresce la produzione locale. La produzione locale però può crescere affiancata dall'Italia, sostiene l'ICE, che sta quindi spingendo per sviluppare un nuovo filone di interscambio con la Russia, il Made with Italy, che in sostanza significa insediare o rafforzare la produzione in loco, non per sostituire il Made in Italy, che deve restare un patrimonio da tutelare ed esportare, ma per rimanere sul mercato russo, continuando a lavorare in attesa di tempi migliori. È importante restare, sostiene Rebecca Bettarini, che segue le relazioni istituzionali di Finmeccanica a Bruxelles. L'ha intervistata Anna Marino. Secondo me è importante continuare a investire in Russia, anche perché la Russia investe molto sulla trasformazione dei prodotti, nel senso che loro appunto hanno il gas, il petrolio, quindi per far funzionare le macchine loro hanno tutto quello che serve ed è molto meno costoso rispetto a quello che costa in Italia. E noi abbiamo dei prodotti di altissima qualità, quindi questa joint venture tra il nostro know-how e la loro manodopera ha portato grandi risultati. L'idea del Made with Italy ci piace, dice Konstantin Krohin, che alla Camera di Commercio di Mosca presiede la Commissione di Cooperazione con l'Italia. Negli ultimi 2 anni abbiamo visto crescere l'interesse alla collaborazione dalle due parti. L'Italia ha prodotti di buona qualità e buona tecnologia. La competenza delle imprese italiane è necessaria in Russia, perché il nostro mercato è grande, ma dobbiamo modernizzare le nostre industrie. Le imprese italiane possono contribuire a questo salto. In passato abbiamo avuto già accordi specifici per la modernizzazione tra ministeri e istituzioni. Nelle tecnologie per l'industria, nell'IT o nella tecnologia per la chimica, l'Italia ha capacità di livello. Possiamo fare delle buone partnership. In questo periodo poi abbiamo non solo l'energia, ma anche il costo del lavoro e i servizi a prezzi molto bassi. Le faccio un esempio nella produzione alimentare. La Repubblica del Bashkortostan negli Urali è la prima per produzione di latte, ma il latte non si può conservare per giorni e giorni, ma se lo trasformiamo in formaggio può durare per mesi. Lo stesso per la carne, ma ci vuole la tecnologia per trasformare questi prodotti in beni che possano essere venduti sul mercato interno russo. L'Italia ha queste tecnologie e l'esperienza necessaria. Quindi se portiamo qui le aziende italiane o la loro tecnologia ed esperienza per trasformare il latte in formaggio, per conservarlo e venderlo, possiamo fare buoni affari. Ecco in cosa possiamo collaborare ora. Le pare che le imprese italiane stiano cogliendo queste opportunità? Sì, per esempio il gruppo Cremonini ha investito molto nel Tatarstan. dove ci sono gli allevamenti di bestiame. Ora Cremonini vuol lavorare anche con le ferrovie russe per il catering a bordo dei treni. E poi c'è questa compagnia che si chiama Delimobil, che è stata avviata da un italiano, Vincenzo Trani. Ha aperto a Mosca in settembre ed è la prima compagnia di car sharing del paese. Ecco, questo è un esempio di impresa nell'ambito dei servizi e non della produzione di beni. È un modello di impresa che viene da Milano. Delimobil, avviata con 800 milioni di rubli, circa 10 milioni di euro, del fondo General Invest dell'imprenditore italiano Vincenzo Trani, è partita nel settembre scorso. L'amministratore delegato è Stanislav Groschow. Come esempio abbiamo preso esempio di Enjoy a Milano. Come abbiamo visto come funzionava lì, per noi è stato interessante a creare una cosa simile qua in Russia. Siamo riusciti e abbiamo più o meno sistema uguale come Enjoy, solo che stiamo usando l'IT, tutta l'infrastruttura, tutto il sistema russo nostro. Abbiamo messo i nostri know-how secondo la mentalità russa, secondo le esigenze dei moscoviti, e abbiamo fatto un prodotto nostro, non è che copiato al 100%. Nessun dorma. Non i capitali, ma la tecnologia italiana è quella che è servita ad Alexei Martinenko per avviare la sua attività di produzione di formaggi freschi, da quelli del Caucaso alle mozzarelle, che onestamente non sfigurerebbero nei nostri supermercati. Umalat, di cui è proprietario, è però un'azienda completamente russa. Non è un made with Italy, ma la dimostrazione che il tessuto imprenditoriale russo è vivo e attento alle richieste del mercato interno. Yeah, we started to produce the cheese like mozzarella, ricotta, mascarpone. Abbiamo iniziato a produrre mozzarella, ricotta e mascarpone 7 anni fa, circa 500 chilometri a sud-ovest di Mosca. La compagnia è tutta russa, 100%. Il proprietario sono io. I'm the owner. To produce mozzarella without Italians. Produrre la mozzarella senza gli italiani è impossibile. Quindi sì, c'è un italiano nel nostro team che fortunatamente ci ha aiutato a produrre la reale mozzarella italiana. Beh, siete stati fortunati anche perché nel frattempo sono arrivate le sanzioni alle importazioni alimentari dall'Europa. Sì, sono stato sfortunato 7 anni fa quando ho iniziato a produrre mozzarella, perché è un formaggio difficilissimo. Ci è voluto un grande investimento e tanto, tanto tempo. Il mercato è ancora molto piccolo, ma dopo le sanzioni il lavoro è aumentato. L'anno scorso siamo cresciuti circa del 30%. Dalle sanzioni ad oggi la crescita è stata del 50%. Vedo un sacco di prodotti che rimandano a quelli italiani, pasta, formaggi, salse, ma c'è davvero tanta voglia di cibo italiano qui? Ai russi piacciono gli italiani. In Russia tutti sognano di andare in Italia, vivere in Italia, di mangiare prodotti italiani. Ammiriamo l'Italia e ci piacciono i prodotti italiani, pasta, pizza, formaggi. C'è qualcosa tra russi e italiani. Ci sono ancora troppi pregiudizi sul fare imprese in Russia o con i russi, aggiunge per Paolo Celeste dell'agenzia ICE. Allora, noi pensiamo innanzitutto che sia un mercato non sicuro, ci siano degli atteggiamenti, delle cose che sentivamo nel passato, di cui forse ci sono delle flange da qualche parte sicuramente, però conosciamo altrettanto moltissimi casi e moltissimi esempi di joint venture che funzionano molto bene. E la burocrazia russa, che per anni ha avuto una triste fama, com'è oggi? Per noi non è un problema, ironizza al microfono di Anna Marino l'avvocato Maurizio Mengassini, partner dello studio legale Grimaldi, specializzato anche in rapporti con la Russia. Negli ultimi 10 anni sono stati fatti notevoli passi avanti, insomma il presidente Putin ha avviato una serie di importanti riforme sullo snellimento dei procedimenti amministrativi, autorizzativi, hanno cercato di introdurre e migliorare sportelli unici per le imprese, o meglio tutor, così amano spesso chiamarli, e poi a livello federale è prevista una normativa che garantisce l'investitore straniero con un risarcimento ampio nel caso in cui va a incorrere in quello che chiamano failure to act, cioè un silenzio, un inadempimento della pubblica amministrazione. Va detto comunque che noi italiani in tema di burocrazia non siamo secondi a nessuno, no? Quindi la burocrazia russa non mi spaventa particolarmente. Ha un cognome importante, un antico lignaggio e molto senso pratico il Granduca Giorgio Romanov, fondatore dello studio di relazioni pubbliche Romanov & Partners e ovviamente esperto di affari russi. Sanzioni o no, ha detto Anna Marino, gli affari continuano, il punto è chi li fa. La Russia è un player strategico, i rapporti con essa sono sempre stati e saranno sempre fondamentali per lo sviluppo economico, per gli equilibri mondiali. E si deve tenere presente che mentre lo scambio commerciale tra la Russia e l'Unione Europea ha calato un 40%, il volume di quello tra la Russia e gli Stati Uniti ha aumentato di un 7% nella stessa epoca. Sarà un matrimonio di interesse, ma anche quelli funzionano. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.